Domani ci sarà una manifestazione statica in Piazza Maggiore, quindi un flash mob con le fiaccole alle 18. Non possiamo fare una vera e propria fiaccolata in movimento perché le norme della zona gialla lo impediscono. E chi sono le realtà che hanno chiamato questa mobilitazione? Dunque, abbiamo anticipato a domani una manifestazione che era prevista per sabato perché abbiamo ricevuto numerosissime sollecitazioni da decine di associazioni aderenti, organizzazioni sindacali e istituzioni e autorità cittadine, compreso il sindaco, il cardinale, la regione e altri, e altre realtà. Quindi insomma ci saranno anche loro alla fiaccolata? Sì, abbiamo confermato il sindaco, abbiamo confermato Zuppi, stiamo aspettando un segnale dalla regione e oltre appunto a oltre 50 realtà aderenti, non parleranno tutte ovviamente. Il portico farà il suo appello a nome di tutti quanti e poi dopo ci sarà qualche voce che interverrà in scaletta. Certo, ecco, quali sono le richieste che porterete in piazza? Noi chiediamo innanzitutto a questa piazza e a questa iniziativa di essere non di parte, non schierati rispetto a un conflitto che si sta sviluppando in tutta la sua virulenza. Occorre innanzitutto, la prima cosa, occorre esprimere dolore e solidarietà per le popolazioni, per le vittime, per i familiari che le piangono, per le persone più fragili che in quei territori sono come sempre gli ultimi della società, ma quando la violenza imperversa sono i primi a soccombere. Poi va condannata ogni azione militare, da qualunque parte provenga, sia venuta prima o dopo l'una rispetto all'altra. Poi dobbiamo fermarci, dobbiamo chiedere a tutti di fermarsi, di trovare la via della ragionevolezza, di continuare a cercarla. La via della diplomazia basata sugli opposti schieramenti militari non funziona, ce lo insegnano agli ultimi anni della nostra storia, ce lo insegna la Bosnia, ce lo insegna il Kosovo, ce lo insegna l'Afghanistan, ce lo insegna l'Iran, la Libia e la Siria, che sono territori che non sono pacificati. Poi naturalmente chiediamo ai paesi terzi e quindi anche al nostro paese di continuare in un ruolo di necessaria mediazione, di non continuare a lavorare come se il mondo fosse diviso in blocchi che non ci sono più e che non vogliamo vedere ricreati, di resistere alla tentazione dei nazionalismi che sono sempre il cavallo di Troia del virus fascista e poi di riconoscere finalmente che c'è un mondo interconnesso e interdipendente. Schemi di lettura consolatori dove c'è il buono che ha tutte le ragioni e il cattivo che ha tutti i torti non aiutano a risolvere i problemi. Ovviamente ci auguriamo l'immediata convocazione sotto l'egida degli organismi internazionali di un tavolo di trattative. Io credo che lasciami dire quest'ultima cosa: noi vorremmo che la piazza di domani, come a Bologna in tante città d'Italia, dimostrasse che i pacifisti non erano spariti, ma che per la pace si lavora ogni giorno in silenzio e lo si è fatto per anni e anni, e purtroppo in questo momento in cui il rumore lo compiono le armi, la voce della pace risulta debole, ma c'è. E poi vorremmo che da queste piazze arrivasse un messaggio forte ai leader, ai nostri leader, ai leader politici mondiali o locali, e quelli legittimi e quelli invece assurdi o senza credito, attaccati al potere a discapito dei diritti civili dei propri cittadini. Il messaggio è che la guerra non si fa e che non si trascina il mondo in un'avventura che è senza ritorno. E infine tutti chiediamo, non rendiamo inutile tutta la sofferenza degli ultimi 2 anni della nostra vita.